Vattene, non sei niente, solo chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo. Due minuti. Primi, è saltata la prima. Vabbè, insomma, è un piccolo intoppo, ma. Le più avvertite e i più avvertiti di voi si saranno accorti, tipo. 10 piccoli particolari. 20 piccoli particolari. Mercoledì 7 luglio. Abbassiamo un po' la cuffia perché era. Era settata per le. Come si dice? Le diottrie delle orecchie. Profilo in DB di elettrodo. Che da tanti anni manda del grandissimo artistico rumore. Alterazioni sonore, insomma, una delle trasmissioni che preferisco, sapete, non perché ci introduca. Però, diciamo, questa cosa c'ha degli effetti collaterali e lui è completamente sordo. Noi pure non è che ce la passiamo molto bene in quanto udito, però insomma stiamo su altri parametri rispetto al buon elettrodo. Nel frattempo prepariamo il CD numero 2, non c'è più ormai. Il CD a destra. Ecco qua, ci siamo preparati e vi diamo quindi il benvenuto e a tutti e a tutte, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, le frequenze, gli 87.9 della modulazione della banda romana e laziale da un bel po' di anni. Radio Onda Rossa che prosegue la sua campagna di radioabbonamento il 16 di luglio, venerdì prossimo, non quello prossimo, quello dopo. Iniziativa al forte, non abbiamo a disposizione sotto mano, poi lo cerchiamo, il materiale che introduce alla iniziativa del forte. Comunque per ora vi dico che andando sul sito della radio www.ondarossa.info e andando a cliccare in alto sul banner della campagna 30 per 1000, 30 euro per 1000 di voi, trovate le modalità per sottoscrivere per la radio aderendo al crowdfunding. Come sapete, appunto, in tutto questo periodo non abbiamo fatto grandi iniziative, alcune tra l'altro andate perfettamente riuscite, insomma andate molto bene, però ecco, non si è potuta fare la stagione di storie che organizziamo qui dalla radio alla radio nei centri sociali, insomma, per fare in maniera tale che otteniamo il finanziamento, i soldi che ci sono necessari al finanziamento della emittente. E quindi vi chiediamo di aderire ancora una volta alla campagna 30 per 1000, anche se l'avete già fatto, magari vi avanzano 30 euro. O anche per dare di meno, si può venire anche in radio se volete. Via dei Volsci 56, San Lollo Roma. Il telefono della radio dopo tanto tempo, lo possiamo dire, lo dicevamo uguale, ma poi vi dicevamo non risponde nessuno. Finalmente tornati alla base. 06 491 750 per le vostre comunicazioni alla redazione ondarossa@ondarossa.info. E infine, per molestare il sottoscritto o per proporgli comunque qualche vostro delirio, qualche vostra traccia, 25 o'clock@ondarossa.info, 25 scritto al numero o'clock@ondarossa.info. Trasmissione tranquilla tranquilla stasera, come un tempo manderemo dischi, vedremo come commentarli, come commentare quello che ci succede intorno, ma se avremo l'estro di farlo, altrimenti vi accompagniamo alla nanna vostra e delle trasmissioni di in diretta di Radio Onda Rossa con una selezione di un 16-17 tracce che inizia così. Se non ci credete, inizia proprio così, perché magari ha dell'incredibile. Dall'Australia, Tame Impala, ormai rimasto praticamente da solo a prodursi tutta questa masnada di suoni, in tranquillità molto chill out, però sempre con quella verve, quell'atmosfera, diciamo quel fumo, quella nebbia che lo avvicina agli esordi più psichedelici. Tame Impala. Da capo. Tomorrow Dust. e iniziava in quella maniera, finiva in quest'altra. Kevin Parker, ormai one man band per quanto riguarda il progetto Tame Impala. Un dischetto che si fa ascoltare per quel che è. Ma stasera sì, avremo delle asperità, ma ci manterremo molto sul tranquillo perché fa veramente caldo. Rimpiangiamo un po' il farfallone che così dava del suo meglio molti anni fa. Poi c'è stata un'era più tecnologica in cui lasciavamo le stagioni fuori attraverso un condizionatore. Adesso anche dato le finanze della radio, i condizionatori sembrano più dei residui di un'epoca industriale. Ormai passata. Lasciamo Kevin Parker dei Impala. Dicevo, il piacere di rimettere i dischi in radio, ritornare a mareggiare con i CDJ e magari anche con i piatti, fra non molto. E anche la possibilità di andare a così a scartabellare in diretta le copertine, e cosa che non si fa più perché appunto il supporto fisico ormai passato, come i condizionatori in un'epoca passata. Presenta 12 tracce scritte su un calendario del 1992, non sappiamo perché 1992, ipotizziamo sia la data di nascita di Kevin Parker, e con questo chiudiamo la parentesi e andiamo a vedere il disco che abbiamo pronto sull'altro CDJ. Il personaggio è un po' più anziano, insomma appartiene a coloro che sono nati negli anni 50 e hanno fatto un pezzo importante del post punk statunitense, soprattutto stiamo parlando di Lee Ranaldo alla chitarra nei Sonic Youth, un progetto del 2020 o del 2019, questo qua del 2020, secondo disco in realtà per loro, per questa coppia, perché lì Ranaldo si fa aiutare, si fa musicare soprattutto da un produttore, un manipolatore che si chiama spagnolo, che si chiama Raúl Refri, Light Years Out è la sesta traccia da questo lavoro che si chiama Names of Nord and Woman. Nord and Woman. Radio Onda Rossa, 25 o'clock. I wanna look like a man who has nowhere to go, nowhere he's gotta be, at large in the 21st century. Light years from your smile, a light rain is falling on Manhattan. We're tired of turning corners, tired of talking. I don't want to talk anymore. You're light years out. Go. young men on parade with bronze queens on their arms, clutching their on-stand hills of caves and mountain minutes, distant hills of caves. In my pants, the outline of the city on the horizon, written in 10 different languages, with 100 different pens. You had all the same stories, twice told tales, told twice more, and then some. Spiel, old boy, go peak, blue, gear, nook, cold places, low, yo. There's a freedom in the open landscape, the open sea. The wilderness is unrestricted, mythic, rampant. The poetics of space, a random collection of cells, random genetics. Your light years out. Angela, now's the time for us to think of doing it. My lust for you has become a real distraction. You're a sweet girl, boy, in the middle distance. Feeling low, low, low, low, low. I can make you love me, feel your resistance. I gotta go, go, go, go, go. Be careful with that name. David Byrne, Chris Franz, Jerry Harrison, Tina Wymont, Brian Eno. Questa è la formazione del 1978 per quanto riguarda Talking Heads. Artists Only, I Am Not In Love. Ask any questions. Who needs to make a new start? I choose to believe you. I said before that I can't, 'cause I'm not in love. What does it take? Fall in love. Do people really fall in love? Twist what I say, please respect my opinions. They will be respected someday, but I don't need love. There'll come a day when we won't need love. I believe that we don't need love. More songs about Balvingo and the food. 1978. Il punk poteva prendere due direzioni. Cioè, in realtà la direzione era una, ed erano molteplici. Molti sottogeneri che andavano ad approfondire quelli che erano stati gli esperimenti, le singole tracce del punk 77, andando quindi a ad approfondire il filone principale attraverso il punk, l'hardcore, il crust, insomma, negli anni successivi al 77, mano a mano le band delineano quello che sarà il loro profilo, il profilo di questi suoni nel futuro. E poi quella che era la wave, cioè una sorta di rendere più appetibili e commerciabili i suoni. E la wave a sua volta si distingue per due modi di suonare: la sezione ritmica, una con un basso molto rigido che crea una atmosfera estremamente cupa, e l'altra invece estremamente colorata, agli antipodi. Anche se sentite questo basso molte volte steccato, stoppato, però allo stesso tempo estremamente molleggiante. Joy Division e Talking Heads, per dirne due, così tanto per capire di cosa stiamo parlando. Talking Heads colorati, infatti in questa, nel retro di copertina, andavano a pubblicare e a descrivere una foto fatta di tante tavole presa dallo spazio, quindi dei primi satelliti, una foto degli Stati Uniti in falsi colori, in cui si andavano a sezionare le varie zone degli Stati Uniti a seconda del tipo di roccia, del tipo di vegetazione, del tipo di antropizzazione. E questa carta, insomma, degli anni 70 già indicava la volontà di mappare, appunto, i territori, conoscere approfonditamente tutta la sfera. E quelli che dovevano essere degli scopi essenzialmente, giustamente, scientifici per l'epoca, in realtà si rivelarono invece dei tentativi di ridurre poi a commercio, a monetizzazione, tutta questa mappatura e questa conoscenza approfondita, sempre più granulare e dettagliata, e si arriva ai giorni d'oggi, in cui ogni nostra mossa è in qualche misura monitorata. Ci teniamo negli Stati Uniti, ma andiamo piuttosto avanti, benché il loro primo lavoro sia del 1982, andiamo nel 2005-2006. Quando usciva questo Rated Ripped, stiamo parlando ovviamente dei Sonic Youth, a 25 o'clock a Radio Onda Rossa ci andiamo ad ascoltare innanzitutto la quarta traccia, che si chiama Sleeping Around. Sonic Youth. Thank you. E allora Sonic Youth, Tasson Moore, Kim Gordon, Lee Ranaldo, Steve Shelley, nella versione questa del 2006, sì, l'abbiamo trovata finalmente la data. E in tutto lo splendore di Sonic Youth ormai maturi, ma molto simili a quelli che avevamo conosciuto nei 20-25 anni precedenti. C'è chi dice che già fossero, avessero così in quell'epoca abdicato verso la forma canzone più classica. Restano però i disturbi e le dissonanze. Tornando a sfogliare di nuovo le copertine dei dischi, degli album, dei long play, usiamo proprio questi termini ormai desueti. La quarta e quinta pagina del booklet è interessato da una fotografia in cui è presente una colonnina antincendio rotta e poi un muro con un sacco di scritte, di manifesti scrostati, insomma, per capirci, un muro probabilmente di San Lorenzo avrebbe potuto essere di quegli anni, ma ovviamente non sappiamo il luogo della fotografia dove è stata ripresa. Anche perché non è indicata nelle note del booklet. Dicevamo, sul muro campeggia la scritta Directation Gets the Gods. E sotto un simbolo di occupazione, come se ne vedevano e se ne vedono nei luoghi occupati. Quindi tripletta per Sonic Youth, Sleeping Around, What's a Vast, e questo è James Run Free. E di là sono pronti Mission Burma. Not the Is this thing on? Can you hear me now? Can you hear me now? In session tonight. Of our broadcast day. This is my farewell transmission. Signing off, Mr. and Mrs. America and all the ships at sea. Anyone within the sound of my voice, this is the BBC World Service. Is this thing on? Can you hear me now? I've got 50,000 watts of power. I got my radio on. Out on Route 128 in the dark and golden. It's the sound of modern moonlight. Can you hear me now? It's the end of radio. And we miss it. Is it really broadcasting if there's no one there to receive? As the last announcer plays the last record and the last watt leaves the transmitter to circle the globe, search of a listener. Can you hear me now? It's the end of radio. John Peel was a hell of a man. In session tonight, it's the end of radio. Can you hear me now? This microphone turns sound into electricity. I wanna ionize the air. Said, not if you were the last man on earth. Can you hear me now? is a test. This is a test. If this had been a real emergency. Hey, hey! This is a real goddamn emergency. It's the end of radio. Is it really broadcasting if there's no one to receive and me and my favorite records? You could call it dead air. I think that's rude. Can you hear me now? To thank our sponsor, but there is no sponsor. Martina Navratilova could not get a sponsor. Martina Navratilova, your name is really fun to say. Martina Navratilova, I'll be your sponsor. I want to sponsor you, Martina Navratilova. Is this thing on? While Bob's tuning, I can take a question if you have any. Any questions? Last night's gig, was your vocals a bit shaky? No, that's just me. Were our vocals crappy at last night's gig? Yeah, generally, my vocals are crappy. Yeah. Okay. This song goes out to the Great White North. Sing along if you know it. Anybody from Canada here tonight? Take off. Hoser. E giocano. Giocano gli Scella, che giocava Steve Albini con il nome di Martina Navratilova. Si tratta del 2004, questa è... La Peel Session, due comparse per la radio britannica, per la BBC, la trasmissione di Peel. Cosa c'entrano quindi Mission Burna con gli Shellac? Nulla, se non il fatto che Bob Weston ha sostituito in tempi recenti, molto più recenti della traccia che abbiamo ascoltato, This is not a photograph. Dicevamo, Bob Weston ha sostituito Roger Miller nel 2002. Nel 2004 invece veniva fatta questa registrazione radio, da cui è tratto questo doppio che appunto presenta a distanza di 10 anni due session. Abbiamo ascoltato The End of Radio, Radio, come dicono i britannici o gli anglofoni. Ed è così una traccia che di tanto in tanto mandiamo per motivi scaramantici. Tiè, ancora siamo qua. E grazie a voi naturalmente e principalmente voi tutte e tutti che ci ascoltate e che sottoscrivete per la radio. A tal proposito ricordavamo il finanziamento della radio che avviene e finalmente avviene anche con una iniziativa live della radio. Non abbiamo trovato la bozza, diciamo, almeno della da leggervi di quella che sarà la storia del 16 luglio, quel del Forte Prenestino, ma abbiamo lo spot che ci era sfuggito e ve lo mandiamo, penso in anteprima mondiale. La cospirazione della Rosa Nera. Radio Onda Rossa, venerdì 16 luglio, live act al Forte Prenestino. Se ti senti con un piede nella fossa e forte di stomaco, allora questo è il film che fa per te. Ore 21:30, Orlock 22 celebra il suo nuovo lavoro, ovvero creazioni sonore ad accompagnare le immagini del film Begotto di Elias Meric. Un inquietante viaggio nel macabro, dove sul finale si intuisce la metafora della violenza dell'uomo sulla natura. Ore 23. Riemergiamo dalle macabre atmosfere con le sonorità tecnoidi live and visual di H501L. A seguire DJ set Electro Industrial a cura di Inoctibus Panis e DJ Electrodo. Ok, spottino finito, bene così. Ma che finito? Vi siete scordati una cosa importante. A 20 anni da G8 di Genova, alle ore 19, con l'aperitivo, c'è la presentazione del libro Millennium Bug, a cura di Indimedia e supporto legale. Bene, allora vi aspettiamo venerdì 16 luglio al Forte Prenestino in via del Pino al 100. Il tutto a sostegno di Radio Onda Rossa. Idols, quindi a Radio Onda Rossa, dopo aver ascoltato lo spottino per il 16 luglio a Radio Onda Rossa, il ritorno della cospirazione della Rosa Nera. Questa era Love Song, 8 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock, Radio Onda Rossa. I swear I kissed your crying eyes. Ancora un'uscita del 2020 per un'etichetta italiana, la Tempesta Record, ne abbiamo parlato già nelle trasmissioni da remoto. Questo luogo misterioso, oscuro, no, oscuro manco tanto, misterioso e basta, dislocato in un altrove, e così questa vaghezza ci ricorda i Noctibus Panis e il buon fagiolino. Allora, dicevamo, Giro 44 riusciti dopo 15 anni, un periodo di pausa enorme, proprio nel periodo del lockdown vanno a pubblicare questo lavoro, che in realtà non è un vero e proprio, è una raccolta di tracce edite già in passato, ma rielaborate e risuonate nella maniera come loro stessi hanno affermato, nella maniera di come se la sentivano oggi. Diciamo, Giro 44, che ci avevano appassionato già appunto negli anni, nella prima decade degli anni 2000, alla fine degli anni 90, e che ancora oggi, più maturi, più brizzolati, direi anzi bianchi proprio, nei capelli però ancora bianchi nella capigliatura, ma ancora più matti, ci andiamo ad ascoltare la prima e la seconda traccia di questo lavoro. La prima credo che sia in realtà un inedito, è Chance to Cure is a Chance to Cut Your Face, e poi Recorder Syntax. Giro 44, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Thank you. Fred Erskine, Sean McDowan, Jeff Mueller e Dow Sharin, Joe 44. Magazines, the Daily Post. ma non sarà mai universale se non sarà cruelty free. Antifascismo, liberazione animale, il medesimo percorso. Ma non sarà mai antifascismo se non sarà cruelty free. La mia zona abitabile, stabilendo fin da subito l'abbigliamento extraatmosferico. La voglio autogestire come spazio intergalattico, dichiarando pace al resto dell'universo animale. Voglio arredare il sistema solare e assistere comodo allo schianto del Bereshit israeliano, solo dopo analizzare l'autopatrica dei sapien, scomponendolo con furie. Osservo con apprensione i simpatici sparietti della Boston Dynamic e penso, strano sia solo io a provare un brivido di inquietebrezza, di paura attorcigliata a futuro. Mi sono addormentato sognando atlas umanoidi in divise da sgherri. Mi braccavano perché polizia e nettezza urbana si fusero per il decoro urbano. Prudentemente allora mi sono salvato sognandomi altrove. La mia zona abitabile, costruendosi da subito tanti soldi al condominio. Voglio che si gestiscano come cellule d'organismo, redistribuendo ricchezze e pezzi di vita in comune. Voglio poter guardare il sistema solare come spazio abitativo multiplanetario, definendo apparente la necessità del capitale, proprio come fece Coriolì. Five O'Clock, Radio Onda Rossa, questo è Cobol Pongide. Abbiamo fatto quasi una magia, eh? È venuto, dicevamo, a presentare la scorsa due settimane fa, qui negli studi della radio, questo ultimo lavoro che si chiama Estremofilia Cosmica e Operaia. Abbiamo ascoltato la 14ª traccia, supporto vitale in zona abitabile e cruelty free. E questa invece è la settima traccia, Lasciarsi nei giorni delle esplorazioni spaziali. 06491750, Radio Onda Rossa, 27 minuti dopo la mezzanotte, ci dilunghiamo ancora. Lanciato nello spazio, troppo distante da te. Dicevi al tempo che era tutto in ordine, razzi ed emozioni, tutti al loro posto. Nei giorni geometrici, vite austere tecniche, prove tardi a seguire gli allenamenti. Dicevi al tempo che era tutto in ordine, dati e sentimenti, tutti al loro posto. Qui modi retrogradi, atmosfere spesse, gas presenti, tossici, moti in congiunzione. Questa è la mia vita, prevede la tua assenza. Ho cancellato fotogrammi e note, l'ho fatto per noi. Scansione planetaria, sequenza principale, testa amminoacidi, andata e ritorno. Ma tu pianificavi un'esistenza nuova, altrove, non qui. Dicevi al tempo che mancava l'evidenza di una correlazione a distanza. Qui voli iperbolici, atmosfere spesse, planetoidi, orfani, sistemi in formazione. Questa è la mia vita, prevede la tua assenza. 32 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock ai controlli. Questa è Angel Dera Dorian in arte. Dera Dorian e basta. Una vera furia è uscito per lei. Il secondo lavoro è completo, almeno Find the Sun. Non lo abbiamo sotto mano, per ora ci accontentiamo di questo Expanding Flower Planet, da cui abbiamo ascoltato The A. Non escatologica, incatalogabile. Con questa ballata dagli echi antichi. Passiamo invece a un dischetto che ci è arrivato qua in radio per intraprendere adesso un momento di tranquillità e di calma verso la fine della puntata. Dicevamo, ci è arrivato un dischetto che ci chiedeva la pubblicazione, lo facciamo perché l'abbiamo ascoltato. Si tratta di anche questo, di un rock and roll blues anni 50, risonato però con uno gusto e uno stile moderno. Lui è Roberto Falconieri. Un demo, Turn Me Loose, di due tracce. Andiamo ad ascoltare proprio la Turn Me Loose, che è la seconda traccia. Quindi Roberto Falconieri a Radio Onda Rossa, 25 o'clock, daje. This is the first time I felt this way. I'm gonna get a thousand kicks or kiss a thousand chicks. The winner, even if they call him loser, you know the legacy he leaves. It ain't no stuff for losers. An electric heart with an acoustic soul. to get free from his demons. When he put his hand on the guitar, the spotlight shone so brightly. Was a good friend, the best tremendous drummer you could find. They shared glory and success and failure, and even the few money left from the pusher's visit. I asked a question to God. I asked a question to God. Even if he knows that I don't believe. Yes, I'm sure he knows I don't believe. He answers me with a thunder, bigger, louder thunder, a better heard. I pick up my guitar and I wrote this song for you. Yeah, I picked up my guitar and I wrote this song for you. This one's for you, Johnny Gonzalez. E anche questa qui è una così a sorpresa. La prima, al primo ascolto, la prima volta che ascoltavamo questo lavoro. Per ora possiamo dire che senza ombra di dubbio ci sembra ben fatto dal punto di vista del di come suona, dai, brevemente, un lavoro accurato. Comunque non c'è fretta, perché di questo lavoro parleremo diffusamente la prossima settimana, quando saranno con noi in studio Wendy. Terzo loro disco, Se non andiamo errati, da cui abbiamo estratto così estemporaneamente l'ultima traccia, A Song for Johnny. Poi ci faremo spiegare. Abbiate pazienza, una settimana. Nel frattempo, come lo definiamo? Il più tranquillo compositore di ballate tristi e terribili per bambini. E cioè, stiamo parlando di Hills. La mandiamo da capo, perché questa I Got Hurt lo dice anche lui. Da capo, Onda Rossa, 25 o'clock, Hills. Got myself carried away, despite all coming. I know there's no Patrick Carney, Dan Auerbach. I più importanti esploratori di zone sonore già conosciute. Chiudiamo con loro stasera, stanotte. Ma non perché ne abbiamo abbastanza, ma perché abbiamo finito la birra. E non si va avanti così, Va bene, dai. Con questo concludiamo le programmazioni in diretta di Radio Onda Rossa. Prima della sigla vi rimandiamo lo spottino. Fresco fresco. Che vi annuncia e ricorda l'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa per il 16 di luglio, venerdì. C'erano delle cose da ricordare, Invece quello che volevamo ricordare brevemente dicevamo quello che volevamo ricordare brevemente, anche se ci chiede di stampare non si sa bene che cosa, la decima edizione di RA e Libertà Critical Wine. Il futuro ancora antico, 8, 9, 10 e 11 luglio 2021, Bussolino, Valle di Susa, dedicato ai popoli che resistono. E quindi in Val Susa, Critical Wine 2021 a Bussolino, da oggi praticamente, da stasera. Prossima sera, come si dice? Va bene, dai, basta così. La selezione in diretta di Radio Onda Rossa finisce qui. Vi terrà compagnia la compagnia domenica Sonata per tutta la notte con le sue repliche, le sue selezioni musicali. Si riparte alle 8 con la rassegna stampa, la rassegna stampa cittadini e nazionali, dalla città e da fuori. Alle 14, dopo una breve pausa, tutta scena cinema. Alle 16, Attica Blues, Oster Back Music. Alle 17, le Skinner Soul. Alle 18, il Mezzedes di... della sera, quindi redazionali della radio pomeridiani. Alle 20 Tabula Rasa. Alle 23 Apostasia. Con questo si conclude anche il palinsesto di domani. Il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro costretti a condizioni di costrette a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari. A tutti gli impedimenti di ordine amministrativo che vengono accollati alle persone per impedirgli di fare una vita che comprenda la lotta, la socialità, l'umanità. Noi ce ne andiamo così. Bella a tutti e a tutte sotto la luna comunista. Dai, a mercoledì prossimo, ospiti Wemby. Dai.